Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Oggi è stata una giornata meravigliosa per me. Tu sei bellissima. Harold, mi fai sentire come una scolaretta. Vengo a trovarti domani. Oh, non posso. Ho un appuntamento per colazione con una ragazza. Ah. Non la conosco neppure. È stata mia madre a organizzare tutto. Una volta Dreyfus scrisse dall'isola del diavolo che vedeva gli uccelli più stupendi. Molti anni più tardi in Bretagna si rese conto che erano soltanto dei gabbiani. Per me invece saranno sempre degli uccelli stupendi. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. Oggi voglio parlare dell'argomento che descrivo in parole molto crude e chiare: donne di una certa età che hanno rapporti con uomini molto più giovani di loro. Non voglio parlare assolutamente più di Brigitte Macron, perché ne ho parlato lungamente nell'ultima puntata, prima della giornata del 25 aprile. Eravamo partiti facendo un confronto fra due candidati al ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi, ma in realtà l'argomento è tutto glissato sul fatto che il giovane Macron ha una moglie di 24 anni più anziana di lui, e questo naturalmente ha infuocato tutti i dibattiti. Oggi non si parla d'altro nei giornali, il vero dibattito è proprio questo. Il nostro occhio sulla politica è soltanto su una sorta di distonia rispetto ai nostri modelli familiare del candidato Macron. Beh, di Macron ne abbiamo già parlato abbondantemente, ne hanno parlato anche i colleghi questa mattina, oggi invece no, parliamo di noi. Perché, signore italiane, lo trovate così tanto scandaloso? Io proprio il pomeriggio, dopo aver fatto la trasmissione, sono andato a prendere l'aperitivo con una mia cara amica e era inorridita. Donna laica, donna disinibita, donna dalle mille avventure: non posso pensare che mio figlio a 15 anni possa avere la storia con una donna di 35 anni. Se solo lo sapessi, l'andrei a prendere, la sbatterei sul muro, la ucciderei. Ucciderei no, ma lo prenderei e lo manderei in esilio, esattamente quello che hanno fatto i genitori di Macron. Beh, perché è così scandaloso? Sì, 15 anni è giovane, mi rendo conto, è un giovincello, cominciamo a entrare in un'area un po' difficoltosa a definire riguardo al grado di maturità. Oddio, a 15 anni tutti sognavamo di farci una trentenne, dico la sincera verità. Non so se le nuove generazioni sono ancora così, anche perché i nostri modelli erano film tipo Grazie Zia, di cui, se il professor Chiappini può agevolarmi un'anticipazione, vi faccio sentire subito quello che era comunque l'immaginario del quindicenne. Sono stanco, voglio andar via. Un momento, vengo subito da te. Sono subito da te. Aiutami, dammeli. Ah, vengo, vengo. Come sei impaziente. Su, tieni. Questo film è la ragione per cui Lisa Gastoni fu portata in tribunale per l'abbassamento generale del livello di diottrie dei giovani italiani in quegli anni. L'anno era il 68, c'era metà dei giovani italiani che pensavano a fare la rivoluzione, l'altra metà guardava Lisa Gastoni, Grazie Zia, con Luc Castel, che era, ricordo, un ragazzino figlio di un ricastro veneto, si finge paralizzato, qualcosa del genere, cioè, comunque sta lì con le gambe paralizzate, e la zia Lisa Gastoni gli toglie la paralisi a tutte e tre le gambe. Ecco, la sintesi è questa. Ecco, di questo allora noi ci pascevamo. Perché la mia amica mia, oggi, ieri anzi, politicamente correttissima, disinibitissima, trova così scandaloso che un uomo più giovane andasse con una donna più anziana? Quando è perfettamente normale nel nostro entourage, ma nel giro delle conoscenze, negli uomini celebri e famosi, che un vecchione se ne vada con una, non dico una ragazzina, ma con una ventenne, un cinquantenne con una ventenne, abbastanza normale. Un un sessantenne come me potrebbe tranquillamente accompagnarsi con trentenni, nessuno avrebbe niente da dire, ma ci sono 30 anni di differenza, come? Io ho 60 anni, posso uscire con una trentenne? Sì, che c'è di male? Oh, che bello, hai una compagna giovane, è fortunato, ha 30 anni di differenza, e quando, che ne so, lei ce n'ha 60, io ce n'ho 90, cioè, mi porta al cimitero, mi raccoglie con la paletta, su questo non c'è niente da dire. E ma invece se una donna ha qualche anno più dell'uomo, subito la gente dice, me l'immagino sotto le lenzuola, cioè il commento tipico della beghina invidiosa, me l'immagino sotto le lenzuola. Ragazzi, sotto le lenzuola è la fantasia che fa da padrona, quello che c'è realmente sotto le lenzuola, ma nessuno se ne è mai occupato veramente. E lasciate perdere sotto le lenzuola, perché sotto le lenzuola è così scandaloso pensare una donna più grande con un uomo più giovane? 800 24 00 24. Cari ascoltatrici, prima di buttare la cipolla nell'olio che già frigge, dove magari c'è un po' di peperoncino, e butterete tra un po' anche il sale se non sfrigola e vi schizza l'olio addosso, fate un pensierino: è proprio così scandaloso e così lontano dalle vostre idee il fatto che possiate comunque anche voi avere un uomo più giovane di voi? Perché abbiamo passato tutte le barriere, tutti i tabù, tutti i possibili accoppiamenti, l'abbiamo sdoganati? Perché la donna più grande, la più grande significa 20 anni di più, no, più grande di un anno o due, non può stare con un uomo più giovane di lei? 800 24 00 24. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Caro Nicoletti, sono una donna di 46 anni, separata da 3. A 43 anni mi sono dovuta rimboccare le maniche e reinventare la mia vita, per di più con un bambino da gestire da sola. Superate le prime inevitabili difficoltà e i momenti di solitudine, ho cercato di guardarmi intorno, ma senza troppa convinzione. Ho avuto un flirt con un collega e un altro uomo conosciuto in vacanza, ma nessuna delle due storie ha avuto un seguito. Ho capito ben presto di avere una scorza emotiva indurita dalla separazione. Poi ho ripreso in modo più deciso ad avere una vita sociale e con una mia amica separata come me, abbiamo cominciato a fare coppia e a frequentare un po' di locali nel fine settimana. Niente di particolarmente perverso, ma l'età degli avventori era sicuramente più bassa della nostra. E così mi sono ritrovata ad avere storie di sesso con ragazzi di 30 anni e anche molti di meno, a dire la verità. Per loro sono la classica MILF che a letto li sa far divertire molto più delle loro coetanee. Perché faccio questo? Prima di tutto perché mi piace fisicamente, non ho problemi ad ammetterlo. E poi perché penso di voler dimostrare qualcosa, anche se a distanza, al mio ex. Sì, sento che sotto sotto è come se volessi dimostrargli che lui di me come donna non ha capito niente. Vorrei dirgli, caro, ecco che questa cosa è una lunga lettera che ho ricevuto alla mia trasmissione domenicale, il treno va. C'è una donna che dopo un amore, una storia matrimoniale finita, si è messa a un ragazzo molto più giovane. E dentro di sé dice, ma l'ho messa, ci sto bene, mi diverto un sacco, però mi piace anche sbatterlo in faccia idealmente all'uomo con cui ho finito tragicamente la mia storia d'amore, fargli vedere, vedi, mi apprezzano molto più giovani, quindi ho ancora un valore di mercato notevole se mi apprezzano più giovani. Chissà perché però su questa cosa qua ancora c'è una grande reticenza, ma veramente persone pronte a sdoganare ormai qualunque barriera che sembrava invalicabile nel campo delle relazioni, ancora su questo hanno molta titubanza. Se ritornasse il figlio a casa, ma mica voglio dire un figlio minorenne, ma anche un figlio ventenne, con una donna di 40 anni, già si andrebbero, lo manderebbero al ricondizionatore, avrebbero dei problemi, già comincerebbero col pallottoliere a fare i conti. Allora quando tu ce n'hai 30, lei ce n'ha 50, quando tu ce n'hai 50, lei ce n'ha 60, e via dicendo. Nicoletta, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, volevo solo dire una cosa. Io ho un figlio che ha avuto una relazione con una signora di 16 anni più. Ma il figlio quanti anni aveva? Perché aveva 22 anni. 22 anni con una 35, con una quarantenne? Sì. È il sogno di ogni ventenne, scusi, qua non infatti, c'è. Esatto. No, il problema mio era un altro, perché siccome il papà ci aveva abbandonato quando aveva 13 anni, la mia paura era che lui cercasse una mamma. Scusa, mica l'ha abbandonato la mamma, l'ha abbandonato il papà. Che c'entra la mamma? Vabbè, però doveva mettersi con un uomo se cercava il papà. Questa è Freud a martellate, già in sé è qualcosa che ormai è fuori dal tempo, ma non c'entra, che c'entra. Ha trovato una quarantenne perché con la quarantenne si divertiva molto più che con una ventenne. È così inammissibile questo? No, io avevo l'unico, stavo dicendo che l'unica mia preoccupazione era che ci fosse questo il problema del papà. Però perché c'era questo problema del papà, scusi? Era questa donna era, la considerava sgraziata, brutta, appassita? No, assolutamente, lui è molto fiero di lei, anzi era si faceva delle grandi trombate, ma beato lui, scusi. Pensi che con delle sue coetanee avrebbe dovuto innanzitutto cominciare a risolvere il problema mi ami o non mi ami. Seconda cosa, già sarebbe stata una proiezione sociale, ci fidanziamo, non ci fidanziamo, ci sposiamo, stai con me, non stai con me. La quarantenne libera, probabilmente abbastanza disinibita da superare questa barriera sociale, spesso era un ragazzo più giovane, carne fresca. No, il problema poi è stato un altro, che quando lui l'ha lasciata, perché lei aveva un figlio, e lui diceva che a un certo punto si sentiva... Beh, un po' si è rotto le palle, ma è giusto, questo è normale. Ecco, e quando l'ha lasciata è lì è stato il dramma, perché lei, vabbè... Lei ci è rimasta male. Normale. Sì, ma anche una quindicenne fa delle scene bestiali, certo, quando viene lasciata. Certo. Sì, per una quarantenne è ancora più brutto, perché lei... tutto sommato si era veramente innamorata di questo ragazzo, probabilmente sì. Per lui è stato un momento di, diciamo, di scuola di vita, sono rischi da affrontare, ma guarda che anche un uomo quando si mette una donna più giovane a un certo punto si rende conto che in testa quella gli girano i calendari elettronici e comincia a fare i conti. Beh, adesso è bello Gagliardo, c'ha 40 anni, certo. Però quando ce l'avrà 50 io ce l'avrò ancora 30, e che ci faccio con un cinquantenne? E cominceremo a parlare di prostata quando in realtà le mie coetanee parlano di dove andiamo a passare il fine settimana. È così. Però, è così. Mentre accettabile per gli uomini, perché per le donne sembra così inaccettabile? Maddalena, sentiamo Maddalena. Maddalena, buongiorno. Ciao, buongiorno. Io ho una testimonianza, perché io ho una cugina che ha sposato a 40 anni un ragazzo, un giovane di 25 anni, quindi neanche tanti anni di differenza. Sì, no, 15 anni. Esatto, non sono neanche tanti, a dire il vero. No. Io sono omosessuale, parlandone con amiche omosessuali, anche loro scandalizzate erano scandalizzate, cioè, ah no, ma perché no, addirittura il discorso, ah no, ma è innaturale un rapporto tra... Ah, ritorna l'idea del rapporto naturale, una volta l'abbiamo abbattuto questa idiozia per i rapporti fra generi, adesso ritorna. Essere genitori, figli, allora ho detto sì, beh, è naturale quello, a te invece che piacciono beh, comunque, le donne, guardi, adesso, allora senza punto, che Maddalena, senza che nessuno si scandalizzi. Tra gli omosessuali sono dei bacchettoni terrificanti, non pensiamo che siano tutte menti aperte. Purtroppo sì. Ma purtroppo è così, ma è logico. Tra ma... le donne addirittura tra le donne omosessuali, cioè sono aperte tanto a parole, adesso non voglio generalizzare. No, e però diciamolo però le cose. Alcune mi è capitato di fare dei discorsi in cui ancora una donna che aveva molti partner, in quel caso ovviamente femminili, veniva giudicato, scusa il termine, troia. Allora io dicevo... È una troia perché c'è tante donne. Vabbè. No, ma se una è libera, ma potrà andare con tutti quelli o tutte quelle che vuole? No, perché comunque c'è questa morale introiettata per cui si ragiona... Introiettata viene da troia, naturalmente. Sì. Certo. Sì. E si ragiona a cassetti, a compartimenti stagni, per cui sei pronta ad andare in piazza a reclamare i tuoi diritti di donna, lesbica, eccetera, però quando senti di una che si mette con un ragazzo di 15-20 anni di meno, no, allora quello non va bene. Sì, ma sai perché, Maddalena, secondo me, perché al di là delle battaglie civili, lecite, giustissime, ancora esiste, penso nel nostro paese, molto più che in Francia, perché in Francia a nessuno gliene è mai importato niente di Macron per questa storia qua, che ha la moglie più anziana di lui, più di anni più di lui, ecco, diciamo anziana che è un termine già brutto in sé. Noi in realtà non ci riusciamo a staccare da questa sorta di assioma assoluto, indiscutibile, che la relazione deve essere legata comunque a un rapporto amoroso affettivo, e quindi l'amore deve essere unico, deve essere esclusivo. Ci sono anche relazioni per il gusto di stare assieme, per il piacere di stare assieme, per il divertimento di stare assieme, perché si fa insieme il sesso e ci si diverte in questa maniera. Quindi tutte queste categorie vengono escluse, quindi anche il rapporto fra due persone dello stesso sesso, che è una grande conquista, il fatto che se ne possa parlare tranquillamente, però deve essere vincolato dall'aspetto amoroso per forza. Sì, è vero. È vero. E qua liberati di cosa siamo? Qua uno deve dire sì, te la do ma mi ami, oppure sì, sto con questa persona però si amano. Se stanno insieme un ragazzetto di 20 anni con una cinquantenne, bisogna sempre dire sì, però si amano. E se invece stessero insieme, perché a lei dà gusto avere un ragazzino più giovane, qual è il problema? Sì, ma pagina c'è anche un rapporto di mutua assistenza e di mutuo insegnamento su tante cose. Io, come ho scritto nel messaggio, addirittura auspicherei che i ragazzini andassero con donne più adulte, perché hanno tanto da insegnare anche dal punto di vista di come Maddalena, qua perché siamo tutti ipocriti, ma è sempre stato così. Si conchiandavano, scusi adesso, ma parliamo in momenti esibiti, ma i ragazzi della mia generazione, anni 50, ma con chi andavano? Con le coetanee, ma ci stiamo a prendere in giro, ma quando mai? Quando mai? Il massimo che era consentito ai tempi del ginnasio era il toccheggio al di sopra della camicetta, ma quando mai con una quindicenne? Se non cercava, diciamo, situazioni un pochino più avanti nel tempo, rimaneva l'asciutto a vita, sempre è stato così. Cioè, sono state sempre benefattrici che hanno molto influito nelle nostre vite, nelle nostre esperienze di vita. Ci fermiamo un istante, grazie Maddalena, ci sentiamo fra un istante. 800 24 00 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Melog, cronache meridiane. Come fare a sedurre un uomo più giovane? Quando intendo più giovane, quando dico più giovane, intendo con una notevole differenza d'età. 40 anni e lui ne ha 20, 25, magari tu ne hai 50 e lui ne ha 30. Devi trattarlo come se fosse un oggetto sessuale, come se fosse un vibratore con le gambe, un toy boy fondamentalmente. Perché in questo modo lui si diciamo, sentirà la spinta opposta, sarà la sua l'esigenza di dimostrare devi trattarlo, diciamo, come un vibratore con le gambe. Questo è Massimo Taramasco, voi direte chi è? Massimo Taramasco è la vera guida spirituale di milioni di donne italiane che non fanno una scelta nel campo delle loro relazioni se prima non guardano i suoi tutorial su YouTube. Massimo Taramasco, pieno di anelli, di braccialetti, con la sua bella testa pelata, però ha per tutto una risposta. E se oggi, confortate dall'esempio francese, molte signore vanno a cercare su YouTube il video di Taramasco, come sedurre un uomo più giovane, la risposta è questa: devi trattarlo come un vibratore con le gambe. Ma perché? Non perché è un cinico, perché al contrario il ragazzetto, se trattato come il vibratore con le gambe, darà amore, cercherà amore, si scioglierà sentimentalmente, penserà che quella è in realtà la donna che deve conquistare dal punto di vista del cuore. È un infamone, dà in mano delle chiavi di distruzione della vita di tanti poveri giovani, però in realtà le cose stanno proprio così. Igor, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Niente, io volevo portare la mia piccola testimonianza. 16 anni fa mi sono innamorato della mia attuale moglie, che ha 13 anni più di me, per cui io ne ho 39, lei ne ha 52, e questo contro la mia famiglia, perché mia madre è meridionale. Non voleva la mamma, figuriamoci. Assolutamente no, anche perché mia moglie portava in dote un bimbo di 2 anni. È andata da Padre Pio, dall'esorcista, da quanti santi si è raccomandata? Guardi, io so solo che il giorno dopo che ho deciso di intraprendere questa storia d'amore sono uscito di casa. A oggi mia madre dice può toccare tutto tranne che la mia attuale moglie, per cui... Ma poi, diciamo, vi ha perdonato, siete ritornati insieme alla famiglia? Siamo ritornati insieme alla famiglia, come le dico, mia madre guai per mia moglie, perché comunque ho capito che mia moglie è al di là della differenza di età. Però non è che sono tanti, 13 anni oggi, diciamo, si ammortizzano, insomma, abbastanza, no? Diciamo, si che sente la differenza? Quando ne avevo 23 e lei 36 si notava un po' di più, poi comunque per una madre meridionale che sogna il matrimonio in pompa magna per il figlio... Vabbè, ma queste madri meridionali saranno anche... Già hanno fatto abbastanza danni, stanno facendo abbastanza danni nelle generazioni contemporanee, perché poi quando i figli emigrano, se ne vanno verso altri paesi, hanno ancora questa sorta di gioco della mamma meridionale che vorrebbe che tutto fosse fermo ancora come gli anni felici della sua fanciullezza, quindi gli anni 50. Il risultato è devastante. Che io... sono sposato felicemente, mio fratello che invece ha 35 anni e ne ha 4 esatti meno di me, a oggi non trova una coetanea con la quale dire posso fare una famiglia, per cui tutte occupate. C'è un 35enne scapolo, libero, che vorrebbe sposarsi, non trova una donna, è impossibile. No, perché sono le donne di oggi, al di là che sono poco impegnate a pensare alla famiglia, pensano forse un po' troppo a postarsi sui social. Ma guardi, suo fratello le racconta storie, perché guardi, oggi c'è una richiesta di uomini che vogliono sposarsi, le assicuro. Certo, deve essere un pochino anche lui adattarsi, non è che può pensare di trovare donne che hanno già fatto il loro iter di vita sentimentale, che con l'orologio biologico in mano dicono ora che ci sposiamo, ma ne trova quante ne vuole, figuriamoci. Già ci sono già delle volontarie, non posso fare nomi, ma noi abbiamo delle allora stegiste di Bolzano che stanno qui dietro il vetro, che stanno mettendomi il numero di telefono. Bene, allora mi mandi pure il telefono, che così vediamo di sistemare. Ma suo fratello come l'ha presa che le ha sposato una donna più grande? Lo prendeva in giro? All'inizio ha fatto di tutto per ostacolarmi. E lui che gliene importava? Perché la ragione qual era? Perché diceva che non potevo avere una donna più grande con un bambino da crescere e via. Ma il bambino quanti anni ha il figlio? Adesso ne ha 18, gli ho consegnato l'auto 2 settimane fa. Vabbè, 18 anni, c'è una mamma di 50 anni, mi sembra una cosa normale, abbastanza normale, no? Ma ne aveva 2 quando ci siamo conosciuti, era un ragazzino di 23 anni, capisce che tutto non era così come si immaginavano nel loro libro di sogni. Lei però la cosa era tratta, perché lei ha fatto un salto generazionale, epocale, territoriale enorme. Cosa l'ha spinta a fare questo passo? L'amore. Era innamorato, l'amore. Quindi vede, sì. ci si innamora, non è che si guarda l'età o altro, è innamorato e basta, è chiaro. Barbara, buongiorno. Buongiorno, stavo ascoltando con interesse questa storia, sono contenta, mi piace. Lei quanti anni ha, Barbara? Io ne ho 44. Quindi potrebbe tranquillamente andare a pescare nella riserva dei ventenni. Allora, io ho chiamato proprio perché questo argomento mi interessa. E perché da quando insomma non sono più fidanzata eccetera eccetera, le mie relazioni sono sempre state con uomini un po' più giovani, sempre di più, fino ad arrivare a 10 anni, 12 anni di differenza. Quindi lei è un 25enne è andata? No, 25enne no, mai, ancora lì non ci sono arrivata, però non è è una strada in discesa, ci siamo. Esatto, però è anche, cioè, anche vero che quando ero più giovane, a 27 anni, io frequentavo un ragazzo di 23, quindi diciamo è stata sempre una tendenza che ho avuto. Ma perché deve vederla come una tendenza quasi patologica? Scusi, non è meglio? Non sono io che la vedo così, è che purtroppo quando mi trovo a parlare con i miei coetanei, uomini o comunque con le persone, c'è sempre questa ilarità sul fatto che la donna è più giovane o comunque insomma un giudizio, un pregiudizio che io francamente non riesco a... Però mi dica la differenza fra andare con un coetaneo, un farlocco quarantenne pieno di sé, figlio di mamma, e un ventenne bello gagliardo che va con lei perché è attizzato e basta, penso, non credo c'è la peraltro. Decisamente meglio la seconda. Ma perché è così difficile dirlo questo? Come no, discorso? Io non ho problemi, io lo dico tranquillamente, però sta cominciando a diventare pesante, perché poi ogni tanto mi arriva, io vivo ad Ancona, comunque una città di provincia, sembra, capito, arrivata alla MILF, già anche poi questa etichetta la trovo veramente... Ma lei mi feggia un po' come atteggiamento? Ma assolutamente no. È milfeggiante? No, assolutamente, cioè, mi succede che, siccome sono una donna, ancora ho voglia di incontrare qualcuno, incontro persone, però più spesso mi capita di trovare affinità con uomini più giovani, anche perché probabilmente sono forse più liberi, non lo so. Prima perché sono più liberi, saranno immagino anche più gagliardi, più carini, ma c'è anche un fatto, l'uomo più giovane cerca la donna un po' più attempata, perché... lo libera dai laccioli dell'imposizione sentimentale, non è obbligato. Guarda, a dire che è innamorato, immagino, no? Sì, sicuramente sì. No, è già tanto, dire... è tantissimo questo, quando mai? Non si trova mai. Io nella vita l'ho mai trovato, per esempio l'obbligo, devi dire, però mi ami, e sì, vabbè, mi ami. Allora, io penso che l'amore e il sentimento siano le cose più belle che tutti sì, ma perché ma deve essere un biglietto necessario per passare lo sbarramento della frontiera intima, capisci? Esatto, purtroppo vedo che molte ragazze, soprattutto sulla Trentina, che cominciano ad avere l'ansia del matrimonio, l'orologio biologico, devono per forza avere la relazione perché innamorate, cioè perché, o comunque devono sistemarsi per la società, ancora oggi, che per me è impossibile, io non riesco a capire come possano le persone ancora pensarla in questo modo. Cioè, invece la pensano in molti così, perché sono le mamme che ancora danno alle figlie questo obbligo, figlia devi sistemarti, lo fanno per le mamme, in realtà sanno benissimo che oggi una donna è sistemata quando è autonoma, quando ha un lavoro, ha la sua autonomia, è sistemata, non è che ha bisogno di averci dietro anche il pedalino bucato a vita, capito? Io la vedo così, vabbè. Peccato che sono vecchio. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Sì. Niente, io sono telefonato per portare un'esperienza per me estremamente positiva, è stata bellissima, da 16 anni fino a 20 anni. Con una donna, quando siamo conosciuti lei aveva 37 anni. Cioè 20 anni più di lei più o meno, ecco. Sì, grosso modo. Ha avuto una storia di 4 anni con una donna che ha 20 anni più di lei. Sì, finché non sono dovuto andare via per ragioni di lavoro. Ma lei era sposata o era libera? No, ero libero. Lei no, la donna. Era divorziata con un bimbo di 8 anni. Quindi donna libera, poteva fare quel che voleva. Sì. Ma la vivevate clandestinamente questa storia oppure alla luce del sole? Sì, anche noi siamo stati avvantaggiati che lei avendo un figlio di 8 anni con cui ho avuto subito un rapporto ottimo, diciamo. E lei faceva finta di essere il babysitter, come passava? Quando uscivamo sempre in tre, via. Beh, faceva, sì. Spingeva la faccia finta di essere il badante del figlio? No, assolutamente. La gente cosa diceva? Cioè, vi ponevate il problema cosa dicesse la gente o non ve ne portava niente? No, non ce ne faceva proprio niente. Vabbè, però è stata una bella storia, lei l'ha vissuta bene. Mio fratello ha capito sicuramente qualcosa perché eravamo molto vicini, ovviamente non erano d'accordo, però siamo andati avanti finché lei aveva un bar molto conosciuto, quindi io poi dopo il diploma sono andato giù a Taranto a lavorare e ci siamo divisi, però ci siamo ritrovati quando sono rientrato nel 2002-2003. Quindi diciamo, un rapporto sposato, che non è... Mi sono sposato poi. E se l'è ripresa come amante dopo? Pensi no, può dire, vabbè. No, vabbè, non vogliamo sapere queste cose. Vabbè, no, grazie. No, siamo alla riprova che un'amicizia fra un uomo e una donna può esistere tranquillamente. Certo, dopo essere stati insieme per 4 anni, sì, sicuramente. Altro sì. Tabù. No, sì, è una scelta, dipende come ci si lascia. Se ci si lascia bene, sì. Se ci si lascia male è un po' difficile. Sara, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io penso che faccia così scandalo il rapporto tra una donna adulta e un ragazzo, un uomo più giovane, perché fondamentalmente la donna, almeno da noi in Italia, viene vista principalmente come mamma. Brava, esattamente, proprio questo, perché la mamma, tutti gli fa da mamma. È la mamma, quindi quando noi consciamente o inconsciamente vediamo una donna grande con una donna matura con un ragazzo, pensiamo subito a un rapporto tra madre e figlia e quindi rimandiamo a un rapporto edifico. No, subito. Sì, ma allora perché un cinquantenne che va con una ventenne? Mettiamo nel mondo dello spettacolo, è un grande playboy, un paraculo, è un donnaiolo, come mai? Ma perché noi abbiamo una concezione maschilista, perché in Italia diciamo il ruolo della donna è sempre visto quello di mamma, sta a casa e che lavora in casa, non certo quello di una donna che può avere un rapporto con un ragazzo più giovane. Penso che sia per questo motivo. Diciamo che la donna non si ammette ancora che possa avere una vita sessuale autonoma, no. È questa la verità. E quindi fare delle scelte di sua testa. Gli piace uno più giovane, va con uno più giovane. E no, ma allora fa la mamma. No, fa l'amante. Sceglie un amante più gagliardo, basterebbe pensare questo. Come un uomo sceglie una donna più giovane perché vuole una donna dalla carne certo, più fresca. È fondamentalmente quello, perché quando dicono ma cosa cerca un uomo in una ragazza più giovane? Cerca le stesse cose che cerca una donna in un ragazzo più giovane, certo. Quindi l'allegria, la freschezza, l'energia che poi magari in un rapporto magari tra coetanei non c'è più. Ma sì, quei cascami noiosissimi. Poi chiaro, diciamo bene, la carne tesa, soda e lucida piace sia agli uomini che alle donne. Escludiamo sempre questo fatto. Certo che le donne non guardano i ragazzi più giovani, non guardano le altre. Come dire, le misure non contano, sempre queste cose qua. Le donne sono sempre quelle che si devono accontentare. Le donne non si accontentano, e mi sembra più che logico e più che giusto, no? Certo. Certo, no, penso anch'io che sia così, è una mia opinione, poi non so se... Sì, ma non ne abbia vergogna e paura della sua opinione, la sua opinione è condivisa dalla maggior parte delle donne, ma non si può dire, perché il tema di passare da depravate, da lussuriose, da donne perdute, adesso lasciamo perdere l'ambito del ragazzino di 15 anni che ci sono dei limiti legali, bene, è una storia di... Sì, ma un uomo maturo dai 18 anni in poi può essere oggetto di appetito sentimentale o anche sessuale anche di una donna che ha 30 anni più di lui, non per questo lei certo. Deve essere considerata una depravata, le mamme non devono strapparsi i capelli o andare in giro con le forbici, dice la sgozzo si avvicina a mio figlio. No, poi naturalmente se il rapporto si esaurisce per altri motivi, ma i rapporti si esauriscono sempre, discorso. Cara, i rapporti si esauriscono sempre, certo. Se rimangono in piedi perché c'è una volontà di tenerli in piedi, ma questi si esauriranno come anche gli altri, anche due ventenni si mettono assieme e vanno in vacanza, litigano e si lasciano, però nessuno ne fa un certo. problema, è chiaro. È una possibilità che si può realizzare, per quello non trovo giusto che possa essere condannato, perché l'uomo lo può fare perché non lo può fare una donna, chiaramente nei limiti della legge. Per tutti, non è, però non è la stessa cosa. E tutti dicono, no, lasciamo perdere il minorenne che è un altro argomento, già tutti mi... Lasciamo perdere il caso Macron che aveva 15 anni, poi non sappiamo se a 15 anni stessero assieme, lui potrebbe essere solo idealmente innamorato, non ci interessa. Stiamo parlando genericamente di uomini molto giovani, maggiorenni, facciamo così, con donne molto più grandi di loro. Gli uomini vengono considerati degli arditi che fanno esperienza, che si trovano alla nave scuola, sono tutti questi termini dispregevoli, capito? La donna è quella che addestra l'uomo, ma l'uomo non può essere il giocattolo del divertimento di una donna allo stesso tempo. Fermiamoci un istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. Mi vuoi aiutare un momento? Certamente. Senti, forse per te sarebbe più facile al buio. Signora Robinson, io proprio non posso. Che cosa? È proprio una cosa che non va. Non ti piace abbastanza? Oh, no, no, signora, lei è la più affascinante degli amici dei miei genitori. Lo dico sul serio, lei mi piace tanto, però... Santa pazienza, ma se l'immagina i miei, ci pensa che cosa direbbero se ci vedessero ora qui in questa camera? Cosa direbbero? Non ne ho idea, signora, ma santa pazienza. M'hanno cresciuto, non m'hanno fatto mancare niente, non si meritano che mi comporti così. Non meritano che alle loro spalle salti in un letto con la moglie del loro socio. Hai paura di me? Quanti di voi, quando hanno visto per la prima volta il laureato, erano nel vigore dei loro 20 anni, hanno detto che coglione, ma saltali addosso. La signora Robinson, il reggicalza, lì bellissima, capito? Ma figuriamoci, tutti con la bavetta, lui pensava, ragionava, vedeva se era il caso o non era il caso, che dirà mio padre, dirà mia madre, infatti si incazzeranno abbastanza. Sì, perché già da allora, questo è un film del 67, dico sempre gli anni in cui sembrava che il mondo fosse capovolto dalla rivoluzione di tutti i valori, quando in realtà ancora era ben fissato nella società questo concetto che comunque la donna matura che andava con un ragazzo giovane era comunque una rovina famiglia, una depravata, rovinava quel povero ragazzo, a meno che non fosse una prostituta, allora in quel caso era ammesso perché la nave scuola deve fare esperienza, l'ammestratrice del futuro trapanatore, ma in realtà nessuno dice una donna può andare con un uomo più giovane semplicemente perché gli piace. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Se il Roberto a cui si riferisce. Sono io il Roberto a cui si riferisce, perché da parecchio che sono in linea. Sì, è in linea. Bene. Io ho avuto un'esperienza stupenda, meravigliosa. Io ho studiato fuori di casa. Ho fatto le scuole medie superiori fuori di casa. Un fuorisede. Prego? Un fuorisede. Dunque, sì, veloce però, Roberto, sennò domani Gela, ancora stiamo a capire che è successo. Dai. Pensavo che non ce la facessi. Dai. A Gela. E quindi necessariamente bisogna andare in stanza in famiglia. Mm. Ebbene, io il primo anno l'ho fatto presso una famiglia e poi sono stato presso una signora stupenda, quarantenne, siccome lì dove io ho studiato. Ma dove studiava? In che città studiava? In che città studiava, Roberto? Prego? In che città studiava? Prego? Vabbè, Roberto, abbiamo capito, è stato con la padrona di casa, fa troppo lunga. Se questo è il tempo con cui lei si rapportava con la padrona di casa, ancora deve dare l'esame del primo anno. Massimiliano, dai. Sì, buongiorno Nicoletti. Ma massacrante. No. Massimiliano, prego. Diciamo che io ero partito nel chiamarla ascoltando la signora di prima che ha le amiche lesbiche, insomma, e poi ho avuto anche altri spunti. Ora, diciamo che comunque c'è molta ipocrisia. Detto cioè, questo, la sua esperienza? La mia esperienza, io ho avuto un'esperienza con una donna molto più grande di me. Quanto più aveva grande? 15 anni più di me. Ora io ne ho 44, all'epoca ne avevo 35, lei ne aveva 5, sì. E devo dire che io non, insomma, anche insomma, non sono stato scontento per niente, anzi, avercene di... Beh, mica glielo ordinava il dottore, cioè non è che gli ha puntato una pistola alla gola. No, anzi, no, me lo di, ha scelto lei, no? Avete sì, scelto insieme. Io, ma nel senso ma com'era la questione? Lei è una donna sposata, libera? No, era libera, Tutti e due liberi? Ero libero io a quel... E vi siete conosciuti e come è sbocciato l'amore? Ci siamo conosciuti perché nell'ambito lavorativo, io lavoravo per la stessa azienda ma in un'altra città. Ecco, quindi... allora, ma chi ha fatto il primo passo? Che di solito una donna molto più grande deve essere lei a fare il primo passo, no? Diciamo che ci siamo studiati all'inizio, no? Si voleva capire un po'... se ci si piaceva, poi vabbè, visto che i segnali erano positivi da ambedue le parti, ok. Cioè, quello che voglio dire anche... Però l'avete vissuta clandestinamente, la storia? No. I colleghi sapevano che due stavate assieme? Allora, i colleghi non lo sapevano, ma per un motivo, perché... Non era bello sul lavoro, vabbè, questo no, ma no, sì, no, ma a parte quello... Allora, si ritorna a quel discorso dell'ipocrisia. Alla gente gli piace mettere bocca dappertutto. Sì. Questa gente che mette bocca dappertutto non racconta dei propri fatti, cioè nel senso gli garba giudicare, ma non si fa giudicare perché poi non ti dà la possibilità, non ti racconta nulla. Quindi nell'ambito lavorativo noi si è detto ok, non raccontiamo. Ma sul lavoro è sempre bene tenersi le proprie cose segrete, è meglio sì, comunque. Sì. Anche poi le storie finiscono, poi nel lavoro si viene condizionati. Sì, ma uscivate insieme, facciate coppia assieme. Sì. Sì, tranquillamente. La differenza non è che si vedeva molto, fra l'altro, perché no, penso... No, ma poi eravamo... Allora, quello che ci ha unito anche era, tra virgolette, l'apertura mentale, nel senso che nessuno dei due si è bloccato su questa cosa dell'età. Cioè, anzi, per noi non era un'altra cosa che non veramente non ci si parlava... Non un argomento... Non era argomento delle vostre discussioni. No, non ci interessava, cioè... Pensi che privilegio? Lei viveva una storia di amore, di passione basata su viversi il quotidiano. Ogni storia, ogni relazione, anche la tresca con la collega della scrivania accanto, comunque sempre proiettata cosa faremo, cosa sarà di noi, ci metteremo insieme, andremo a vivere assieme, è una noia mortale. Ho capito. No, Nicoletti, questa poi è una cosa che, come dice lei, mette ansia. Cioè, quello di dover programmare. Cioè, viviamola tranquillamente, se sta bene insieme. Perché? Perché a metterci quest'ansia addosso? E poi io sono single, ora, in questo momento. E ho incontrato persone un po' più piccole di me che, proprio per quello che diceva lei, Nicoletti, cioè, già vogliono fare la storia. A me una mi ha chiesto, ma ci mancava solo che mi chiedesse l'estratto conto. E quanto aveva di età questa donna? No, questa qui aveva 40 anni. È 40 anni, è il momento dell'orologio biologico. La quarantenne oggi ti fa l'esame RAGX, vuol sapere che fai, quanto guadagni, dove abiti, c'è a casa del tuo, lo stipendio. Però secondo me il rapporto non va molto lungo. Chi si accontenta gode, ma gode un poco. Marta, chiudiamo con Marta, un minuto. Marta. Sì, buongiorno. Sì. Ho già accennato cosa volevo dire, nel senso che non ricordo un romanzo di Tertullio Dostoevskij, a un certo punto... Non racconti il romanzo, le piacerebbe andare con un uomo molto più giovane di lei? A me? Ma no, in questo momento no, ho 67 anni e non mi interessa in questo momento, sono diciamo... Ma ci ha mai pensato a 40 anni, a 50 anni? No, onestamente no. Non ho mai pensato al sesso, ma ho pensato all'interesse, all'interesse al capire le persone. È un problema. Tutto il resto mi sembra molto ridicolo, cioè molto banale. Ma mica tanto, guardi, non è proprio banale. È la molla che muove l'universo, l'attrazione fisica fra le persone. Comunque, lei non ha mai pensato al sesso, quindi che ha telefonato a fare oggi? La domanda era solo questa: può una donna fare una scelta soltanto di sesso, scegliendo un uomo più giovane? Non mi avete molto risposto. Alla prossima.